Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti schei? 24 mattino. Signori, siamo qui, sono le 7:19 minuti, eccoci nello spazio dedicato alla lettura dei giornali e la rassegna stampa. Oggi, signori, c'è anche il grande Mauro Meazza in studio qui con noi. Mauro, è vero che buongiorno, ci sei? Buongiorno, sono qui, anche se dalla voce non mi si riconosce, lo so, esatto, che sono abituati alla voce dal telefono. Fai un po' l'accento svedese. Mi vuoi telefonare? Quello ungherese, perché oggi, come abbiamo detto, è festa nazionale, esatto, in Ungheria. Oggi è festa nazionale in Ungheria, sapevatelo, genere si dice così, sapevatelo. E prima Mauro Meazza con la sua dotta scienza innata, innata, senza strumenti tecnologici di supporto, ci ha svelato anche che tipo di festa c'è e ci ha snocciolato anche tutte le altre feste nazionali in Ungheria di tutto l'anno. Certo, bisogna alzarsi un po' presto per avere tutta questa cultura, però vedi che ne vale la pena. Ne vale la pena. Allora, è una rassegna stampa un po' così, movimentata. No, no, in realtà andiamo a leggere i giornali anche con il supporto di Mauro Meazza. Andiamo, Peter! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Sapevi questa sigla di Don Livio Fanzaga? Ma guarda, mi sembra di averla già sentita diverse mattine. Perché ascolti Radio Maria? No, ascolto Radio 24, non Radio Maria. Di solito sono sintonizzato sulla tua trasmissione. Va bene. Allora, che piaggeria, veramente vergognoso. Mercoledì 15 marzo, questa è la data. Mercoledì 15 marzo, andiamo a vedere intanto velocemente i titoli. L'apertura del Sole 24 Ore la vuoi dire tu per... Sì, grazie. Allora, la Fed pronta ad alzare i tassi e per quanto riguarda Brexit, sapete che si può attivare finalmente questo articolo 50 del divorzio, la sterlina che sta ai minimi. Divorzio tra Londra e l'Unione Europea, no? Non mettiamo nel dramma le persone che magari... No, no, l'articolo 50 che si intende, sì, il divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Peraltro adesso la Scozia vorrebbe a sua volta divorziare da Londra, quindi si innesca una serie di divorzi a catena. Sì. Poi questo tema che è affrontato da molti quotidiani è quello dei voucher. Allora, voucher, un decreto antivoto è il titolo di apertura del Corriere della Sera, perché c'è il referendum fissato il 28 maggio per abolire i voucher, quello per cui ha raccolto le firme alla CGIL, ma il governo sta pensando a un decreto per cambiare le norme e di fatto far decadere questo referendum. Repubblica, voucher solo alle famiglie, un decreto del governo cancellerà i referendum. È ancora più esplicito il Messaggero, che titola un altro referendum inutile. Mentre la Stampa, e da qui voglio partire per approfondire le notizie, ha questo allarme migranti, sbarchi record come titolo di prima pagina. Sono le previsioni del governo, quello di avere 250.000 sbarchi nel 2017. Sono dati, caro Mauro, del Ministero degli Interni, quindi del Viminale, per cui dati ufficiali, sono previsioni ovviamente, ma il Viminale dice, Francesco Grignetti a pagina 2 della Stampa, quest'anno gli arrivi saranno 70.000 in più del 2016. Tra l'altro mi ha molto colpito e incuriosito, per la verità la notizia era apparsa anche sul giornale qualche giorno fa, se ricordo bene, sono sotto accusa le navi delle organizzazioni non governative. Ci sono queste navi che fanno salvataggio in mare, sono lì nel Mediterraneo, ma ora ci sono tre procure italiane che indagano, tra l'altro su segnalazione di Frontex, quindi questo strumento europeo per controllare, diciamo, i mari e il mar Mediterraneo, e tre procure indagano perché accusano queste navi di essere una sorta di taxi degli scafisti. E parla anche il magistrato antitratta Maurizio Scalia, intervistato da Riccardo Arena sulla Stampa, dice: è vero, le indagini sono in corso, c'è il segreto investigativo, ma diciamo pure che sono fatti che è molto difficile accertare. E alla domanda ma è possibile che organizzazioni non governative si muovano in sinergia con gruppi di trafficanti di esseri umani, risponde: a un problema che ci siamo posti e che seguiamo con attenzione. A oggi non sono emersi reati così evidenti da giustificare l'adozione di provvedimenti da parte nostra. Caro Mauro, come la giri la questione dell'immigrazione rimane sempre centrale, lo sarà anche nella campagna elettorale. Sì, e queste previsioni poi confermano quelli, i primi dati che avevamo avuto appunto nell'andamento già di gennaio. Se poi sappiamo che i mesi, appunto i primi mesi dell'anno non sono favorevoli ovviamente agli sbarchi, possiamo immaginare che la pressione vada ad aumentare con il miglioramento del clima. Sì. in questo caso proprio quello che favorisce le traversate in mare. Tra l'altro, per rimanere in tema, se vuoi, immigrati, c'è questa sentenza di cui parlano tutti i giornali, lo fa anche il Sole 24 Ore in prima pagina con Marina Castellaneta, poi l'articolo continua a pagina 5, c'è una interessante sentenza della Corte di Giustizia Europea che riguarda una lavoratrice che in Belgio voleva indossare il velo, essendo musulmana, in questa azienda privata nella quale c'era un regolamento, per la verità all'inizio non scritto e poi scritto, che non si possono mostrare simboli di appartenenza religiosa, e questa signora è stata licenziata ma ha perso la causa alla Corte di Giustizia Europea. Tutti i giornali titolano: è legittimo vietare il velo islamico sul lavoro. In realtà tutti simboli, no? In questo caso sì, è il velo islamico. La sentenza è abbastanza complicata, però per dirla in 30 secondi funziona così. Hanno detto sostanzialmente i giudici: se c'è una norma nazionale che vieta in qualche modo, ad esempio, di non essere riconoscibili, allora può valere quella. Se l'azienda dispone che non ci siano questo utilizzi di simboli religiosi o appartenenze filosofiche, eccetera, è legittimo da parte sua farlo, anche in considerazione che questa lavoratrice appunto era a diretto contatto con la clientela. Poi su velo islamico bisognerebbe aprire un'altra parentesi, perché come sai ci non c'è un solo tipo. È chiaro, cioè... Peraltro nella stessa giornata, e lo riferisce proprio la Castellaneta sul Sole 24 Ore, è stato bocciato un datore di lavoro che aveva licenziato una dipendente che lavorava appunto indossando il velo islamico, però in quel caso la Corte ha detto no, questa è discriminazione, la signora ha tutti i diritti di lavorare indossando il velo. Quindi due decisioni nella stessa giornata che contrastano. Ma infatti l'opinione pubblica si divide, devo dire che tutti i giornali dedicano almeno una pagina, ai giornali generalisti voglio dire, a questa sentenza, con il dibattito: è una sentenza giusta, una sentenza sbagliata, la questione del velo islamico. Non lo so come la pensiate voi riguardo invece alle cosiddette fake news, le notizie bufala, ma anche qui c'è un'iniziativa che parte dalla Germania. Alessandro Merli lo racconta a pagina 12 del Sole 24 Ore, segnalo anche mezza pagina di Fabrizio La Rocca su La Verità, pagina 4 su questo tema. L'odio sul web, le fake news, ovvero le notizie bufala. In Germania stanno pensando a un giro di vite con multe fino a 50 milioni di euro contro i social network che diffondono queste notizie false, farlocche. Ecco, farlocche. Io su questo ne abbiamo già parlato prima alle 6:30, sono magari più propenso a dire va bene sulla questione, non so, dell'incitamento all'odio, ma ci sono le leggi, l'incitamento all'odio razziale c'è anche in Italia. Sulla questione del dov'è il confine per definire una diffusione virale, una notizia bufala oppure no, qui è tutto talmente opinabile che mi sembra, Mauro, molto difficile stabilirlo. Sì, magari ecco, si potrebbe consigliare non accettate non caramelle ma notizie dagli sconosciuti, insomma. Esatto. Di solito ecco, i siti nostri, dei giornali, delle radio fanno un po' più di verifica prima di mettere in rete le cose. E tra l'altro continuano a dire, urca che voce diversa che c'ha il Meazza, che non è... allora, spieghiamolo, di solito è al telefono Mauro Meazza, oggi invece è qui in studio. Sì, e poi Peter naturalmente mi modifica la voce per farmi fare brutta figura. Questo sì, Peter è il solito lì, Peter Bescapè, regia, il nostro alpino è sempre lì in, come dire, in boicottaggio, questa è la parola giusta. Credo che boicottatore sia anche il titolo professionale che ha nella firma del contratto. Adesso è proprio iscritto nei registri aziendali con questa qualifica. L'albo sì. Dei boicottatori. Allora, spesso Mauro mi accusano di non dare buone notizie, di dire sempre vedere le cose negative, eccetera. Allora io ho trovato una buona notizia, quella che mi sembra una notizia positiva. La racconta la terza caparra del Milan. No la racconta Repubblica. Giampaolo Visetti racconta la storia di un'azienda storicamente produttori di formaggi, insomma, ma non solo, di burro, eccetera, la Brazzale. Che cosa hanno fatto alla Brazzale? Hanno deciso che per ogni dipendente che fa un figlio ci sarà una mensilità in più. Per carità, lo stesso patron Roberto Brazzale, intervistato, l'articolo di Giampaolo Visetti è questo: nell'azienda delle culle piene uno stipendio in più a chi fa figli. Dicevo, lo stesso Roberto Brazzale dice non, Non è certo questa la soluzione, dovrebbe un governo, dovrebbe lo Stato, dovrebbero le politiche del welfare risolvere la questione della denatalità, ma mi ha colpito il fatto che cifre tanto impressionanti sulla denatalità non smuovano lo Stato e i privati. Da piccolo vedevo mamme e carrozzine in giro, oggi vedo solo badanti e sedie a rotelle. Per i giovani pensare a un figlio è un problema enorme, ma ancora non diamo un peso adeguato a quella che è un'epocale tragedia collettiva. Ed eccolo qui, all'azienda di Zanè è stato staccato il primo assegno per la responsabile delle analisi chimiche, che è diventata mamma e ha una settimana, una mensilità in più. Poi la prossima sarà l'economista che guida l'ufficio costi, che è incinta e quindi auguri, anche lei diventerà mamma. Per carità, Mauro, è una piccola goccia, ecco. È un welfare aziendale, come si dice, che però, appunto, come nota Brazzale, tra l'altro noi l'avevamo segnalato venerdì scorso, credo, sulle pagine proprio dedicate alle questioni del lavoro sul Sole 24 Ore, come dice lo stesso Brazzale, insomma, il welfare aziendale è poco se non c'è un welfare statale complessivo. Sì, si tratta di 1.500 euro per chi è lì da almeno 2 anni e si impegna a rimanere nei successivi 2 anni. E vale anche per i papà, cioè i papà, quelli che diventano papà, non solo per le donne ovviamente dipendenti che fanno... Ma questa non è la notizia che ti fa più inzare della giornata? No. La notizia che mi fa più inzare della giornata, quella da mani sul volante, tu puoi tenere anche le mani sul microfono, si può fare, è questa. L'ho trovata su Libero. Ti ricordi, caro Mauro, della questione di Crocetta e la regione Sicilia e tutti i portatori di disabilità, che ha portato anche l'ex Iena, PIF, a andare in piazza, a urlare, a manifestare per il fatto che non ci sono risorse sufficienti per quello che è un diritto per i disabili, essere seguiti 24 ore su 24. Ebbene, Crocetta vuole fare pace con i disabili, li hanno chiamati, li hanno convocati alla regione Sicilia, ma li ha invitati in una sala inaccessibile per le barriere architettoniche. Ma Alberto Samonà lo racconta su Libero, guarda, te lo faccio vedere. Poi ovviamente con grande imbarazzo hanno spostato la riunione, non è che è saltata, l'hanno messa in un'altra sala, non si può accedere al secondo piano, andiamo al primo piano. Il vertice nell'imbarazzo generale: Crocetta vuol far pace con i disabili, ma l'invita in una sala inaccessibile. Alessandro Milan, il motore a rotta, l'informazione. Marche profonde, infatti ho bisogno di una traduzione. Fortunatamente c'è qui Mauro Meazza, che è colui che distilla sapere a gocce. Mauro Meazza, ci puoi fare una traduzione? No, perché stavo studiando l'ungherese, perché mi hai detto devo prepararmi sull'Ungheria e adesso devo passare al marchigiano. Allora, profondo, marche profonde, peraltro. Allora, ripartiamo dalla politica. Oggi è il giorno in cui si vota la mozione di sfiducia portata avanti dal Movimento 5 Stelle nei confronti del ministro dello sport Luca Lotti. Tra l'altro, chicca scovata anche dal Corriere della Sera e riproposta dai giornali e dai social, come i cazzeggiatori su Twitter, come me per esempio, no? Sul mio profilo Twitter Alino Milan potete vederlo, è vero Mauro Meazza, se vai sul profilo del governo ufficiale alla voce ufficio dipartimento per lo sport, il ministro Luca Lotti è definito così: ministro per sport. Sì, devo dire c'è la maiuscola, però il salto dell'articolo purtroppo è fatale. Esatto, non è ministro per lo sport, ma ministro per sport. Così va bene, è una stupidaggine. Allora, vi segnalo Francesco Verderami, pagina 6 del Corriere della Sera. Lo scudo del ministro: colpiscono me ma mirano all'ex premier. Il discorso di Luca Lotti oggi anticipato in alcuni stralci dal Corriere, scrive Verderami, la posizione di Luca Lotti sarà eminentemente politica, e cioè su di me si scarica un'operazione che mira a rottamare Renzi. E ancora dirà Luca Lotti: siamo persone e siamo gente per bene. Tra l'altro, però, nel giorno in cui nello Stato Maggiore del PD si era vociferato di un'altra imminente indagine giudiziaria con nuovi arresti che avrebbero epicentro nel Partito Democratico e farebbero da cassa di risonanza la discussione al Senato. Insomma, siamo sempre lì, Mauro, la questione giudiziaria giustizialisti, non giustizialisti, che aleggia sempre un po' sui leader politici del momento, mi verrebbe da dire. Sì, e anche quelli non più proprio del momento, nel senso ex presidente del Consiglio, anche se poi candidato per le primarie, tuttora segretario del primo partito, mi pare, no? Fino, esatto. Fino a nuova votazione. No, tra l'altro oggi la Verità, per esempio, titola, non so se è questa l'inchiesta a cui fa riferimento il Corriere della Sera, Lotti, altra inchiesta con fuga di notizie. Il ministro in Senato per la mozione di sfiducia, testimoni lo accusano di aver fatto la stessa cosa per una nuova indagine, una turbativa d'asta a Firenze. Staremo a vedere se si tratta di una nuova inchiesta. In tutto questo c'è anche invece, ci ha stupito anche prima, Mauro Meazza era un po' stupito sulla vicenda di Beppe Grillo e il blog, perché il PD ha querelato Beppe Grillo, o meglio alcune cose che sono uscite sul blog di Beppe Grillo. C'è stata una querela e gli avvocati di Beppe Grillo si sono difesi così: Beppe Grillo non è il responsabile e dunque non è l'autore, né il gestore, né il moderatore, né direttore, né provider, né titolare del dominio, del blog, degli account Twitter, di Facebook, non ha alcun potere di direzione, di controllo su tutto ciò che viene postato su beppegrillo.it. Lo trovo perlomeno curioso. Dal punto di vista legale sarà così, cioè, nel senso che c'è un'altra persona che viene anche citata da qualche giornale. Che agisce, per di capire, in piena autonomia, cioè interpreta lui il pensiero del titolare. Non so se in piena autonomia, ma comunque è il responsabile legale, no? Evidentemente, di tutto quello che, dei contenuti che ci sono su... infatti è partito l'ironia sul blog a sua insaputa, eccetera. Comunque il PD lo querela, Grillo non c'entro con il blog. Ti ha incuriosito? Mi ha incuriosito, è proprio la parola giusta, mi ha incuriosito. Lo trovo un po' bizzarra anche come strategia difensiva. In ogni caso, l'altro tema del giorno che ci permette di entrare anche a approfondire i temi del Sole 24 Ore è quello del referendum sui voucher. Sapete che sono state raccolte le firme. Ci sarà, qua bisogna mettere un enorme punto di domanda, il referendum per abolire i voucher e anche cambiare la normativa sugli appalti il 28 maggio, questa è la data che è stata stabilita, ma appunto ci sarà questo referendum? In realtà tutti i giornali raccontano che il governo sarebbe in procinto di varare un decreto legge, questo venerdì addirittura in Consiglio dei Ministri, addirittura per abolire i voucher, secondo la versione più estrema. Quindi Mauro, si fa, si aboliscono e quindi il referendum decade di fatto. Oppure, che è un'altra tesi, però appunto il confronto sta continuando, limitare i voucher solo alle famiglie, oppure solo alle famiglie e ad esempio in alcuni settori, l'agricoltura, che è un punto di utilizzo dei voucher. A margine, è comunque già calata molto la crescita dei voucher da quando nell'autunno scorso sono state messe delle norme di chiusura per l'utilizzo con avviso preventivo via SMS e una serie di regole, insomma, di procedure che servivano proprio a evitare gli abusi. Tra l'altro c'è il retroscena politico, sai che non ce lo facciamo mancare su nulla, sui giornali da ormai da qualche anno. Carmelo Lopapa su Repubblica in prima pagina racconta che proprio l'aspetto politico è quello di volere disinnescare una mina, cioè un nuovo referendum, dopo che il referendum del 4 dicembre di fatto ha sancito la caduta del governo di Renzi. Ecco allora che si vuole evitare che il 28 maggio si trasformi in un nuovo 4 dicembre. Renzi stavolta non si lascia tentare dalla sfida, scrive Carmelo Lopapa, a ministri e capigruppo impartisce l'ordine di scuderia. Abbiamo di fronte la battaglia congressuale e le amministrative, concentriamoci su quelle. E tra l'altro in questo retroscena Renzi e i suoi dice questa frase: in fondo, diciamo la verità, i voucher non sono mai stati una mia invenzione e non c'entrano nulla col Jobs Act, visto che sono nati dai governi precedenti di centrosinistra. Formalmente questo è formalmente corretto, poi c'è stato però anche sotto il suo governo delle indicazioni di utilizzo che sono state modificate. Ma se è la mia volta, tocca a me, devo dire, allora oggi con il Sole 24 Ore, caro Alessandro, cari ascoltatori, un focus, come sai è mercoledì, quindi parliamo di assegnazione dei beni ai soci. Io vedo che la cosa non ti scuote, eppure ti posso assicurare che commercialisti e i soci stessi della società sono molto interessati. Li vedo 16 un po' sbagliare in questo momento. 16 pagine con il Sole 24 Ore. ti ho già ammonito sulla possibilità di scambio di liste di evasori Italia-Svizzera, evasori, diciamo, gente che si è scordata di segnalare depositi all'estero, patrimoni all'estero, può capitare, uno si dimentica, ecco, però attenzione, leggete norme e tributi. E poi la rottamazione delle cartelle esattoriali. Il termine è ancora fissato a fine marzo per presentare l'istanza Equitalia. Hai presentato l'istanza? No, sei smarrito. Va bene. Allora, sappi che il termine è ancora fissato a fine marzo. Tuttavia, si pensa a una proroga al 21 aprile. Si voleva fare con un emendamento, non si può fare, allora forse, ma forse, decreto legge. Leggi norme e tributi religiosamente, come sempre devi fare, e vedrai che tutto ti sarà più chiaro. Segnati che il 23 marzo è stato indetto uno sciopero dei taxi. Uh-huh. Nuovo sciopero dei taxi, infatti. E poi le partecipate. Le società partecipate, sai che dobbiamo intervenire a sfoltire 8.000 partecipate, sono anni che ragioniamo di questa possibilità. E va bene, allora oggi Gianni Trovati ti informa che si sta ancora discutendo qual è la soglia di fatturato sotto la quale la partecipata va dissolta, va sciolta, va cancellata per sempre, non lo sappiamo ancora, però tra oggi e domani, guarda, dovrebbe essere proprio la settimana decisiva, la settimana decisiva per sfoltire le società partecipate degli enti locali. Alessandro Milan, Fuji Suza, Konnichiwa, Dongija, dialetto sudcoreano. Sì. Ma qua abbiamo Mauro Meazza, fortunatamente, che ci può anche raccontare che cosa ha detto. Attenzione al dialetto, capisco, non è la lingua ufficiale, quindi magari non sei ancora ferrato in dialetto sudcoreano. Allora, prima mi hai fatto studiare l'ungherese, poi mi hai spostato sul marchigiano profondo, adesso il sudcoreano. Ci vediamo poi domani, ci sentiamo al telefono domani. Allora, sta prendendo domani tempo, non sai il sudcoreano. No, lo ammetto, non lo so. È la verità. Basta, ammetto questa la mia ignoranza. È la verità. Allora, oggi si vota in Olanda, è un voto importante, e oggi tutti i giornali raccontano perché lì anche si vede un po' se le spinte anti-europeiste, quelle del partito di Geert Wilders, avranno e chissà quanti voti, se addirittura potrà vincere le elezioni. Mauro, quindi ormai siamo abituati che elezioni che magari un tempo apparivano, non dico locali ma nazionali, ora possono avere un riflesso, anzi sicuramente anche un riflesso internazionale, sì, e europeo. Questo è un anno molto molto critico proprio per i voti che ci sono previsti in Europa, perché Olanda, Francia, Germania sono degli appuntamenti elettorali in cui, siccome abbiamo visto ad esempio il voto su Brexit in Gran Bretagna, si teme appunto l'avanzata di spinte populiste e anche in qualche modo di disgregazione dell'Unione Europea, con tutte le incognite che questo può significare. Non parliamo per adesso di moneta, di euro, eccetera, proprio dal punto di vista della unione politica e della sua possibilità di migliorare, di avere un'integrazione ancora maggiore. C'è da dire, per rimanere all'estero, vedremo ovviamente le elezioni in Olanda come vanno, c'è anche la Francia, anche lì si vota per l'Eliseo. E a 40 giorni dal primo turno delle elezioni per l'Eliseo c'è un problemino per François Fillon, cioè il candidato della destra, che, come racconta Repubblica, sotto il titolo Stipendia, moglie e figli, Fillon indagato, aveva promesso in diretta TV di abbandonare la corsa all'Eliseo se fosse stato indagato dai magistrati, ma non sarà così. François Fillon ha ricevuto l'avviso di garanzia, ma ha intenzione di non mollare. Il candidato della destra è formalmente indagato per appropriazione indebita di fondi pubblici, abuso di beni sociali, complicità e occultamento di questi reati, violazione degli obblighi di comunicazione all'alta autorità in materia di trasparenza nella vita pubblica. Insomma, reati non per un politico abbastanza imbarazzanti. Eppure ha detto: vado dai magistrati. Tra l'altro avrebbe potuto valersi invece della immunità parlamentare, invece andrà dai giudici, dice: spiegherò tutto. Sta di fatto che l'accusa è quella di avere usato soldi agli assistenti che ritornavano poi a lui. E lui dice che avrebbe anche dichiarato che in realtà la moglie effettivamente lavorava e quindi non c'era nulla di strano se veniva poi ricompensata, pagata per il lavoro che svolgeva. Questo in Francia, tutto il mondo e paese. Torniamo alle questioni italiane. Mi ha colpito, ne abbiamo discusso anche prima alle 6.30, perché si parla tanto di legittima difesa, dove debbano essere posti i paletti e i limiti della legittima difesa. C'è questa intervista a Monsignor Tessarollo, che è il vescovo di Chioggia, il quale, ed è l'apertura del giorno questa, a pagina 3 del giorno, intervistato da Giovanni Panettiere, racconta: capisco chi reagisce ai banditi. Lo Stato è assente e usa anche questa ironia, certo si potrà dire magari un po' poco cristiana, tu almeno Mauro l'hai già vista così, si danno vitalizi ai ladri che cadono in incidenti di lavoro, cioè il lavoro sarebbe quando vanno a fare le rapine in ville, magari. Sì, si intende non incidenti sul lavoro, esatto, nel senso proprio, ma lavoro ovviamente quello di rapinare o derubare, insomma, in villa. Sì, ci siamo dimenticati del vitalizio da 1000 euro al mese per 27 anni disposto in primo grado a vantaggio della madre e della sorella di un bandito? Si chiede ironicamente il vescovo di Chioggia. Ribadisco quell'espressione, incidente sul lavoro, perché nel Veneto ci sono bande che assaltano ville, famiglie, rubano rame, ritengono che questo sia il modo di guadagnarsi la vita. Poi qualche volta capita che facendo il loro lavoro, tra virgolette, si verifichi qualche incidente. Certo, però su questo, sulla sicurezza dei cittadini, anche qui si giocherà molto. Sarà una questione di percezione, però i cittadini sentono che non c'è una protezione adeguata. Se uniamo il neoprotezionismi, la questione degli immigrati che citavi prima e la percezione di maggiore insicurezza, che poi sia reale o non sia reale, direi che abbiamo poi la spiegazione perché anche il voto olandese diventa così importante, perché il voto ha una formazione più conservatrice, diventa così importante in tutta Europa. C'è una notizia invece che viene dalla Svizzera, non è quella che... Delle liste? No, non è no. Quella delle liste. Si parla di calcio, però. Di un interista, però, di un ex interista. Di un ex interista, Paolo Tramezzani. No, che ma ora... dillo che è un ex interista. È un ex interista, infatti. Ma mi sembrava che fossi reticente. Ma credo orgogliosamente. Però allena una squadra bianconera adesso, il Lugano. Il Lugano in Svizzera. D'altra parte bisogna pur mangiare. Allora, Paolo Tramezzani, che allena il Lugano in Svizzera. Il Lugano è andato incontro a una sconfitta 5-2, insomma una sconfitta in campionato che ha fatto infuriare Tramezzani. E allora sapete che cosa ha fatto? Ha convocato tutti i giocatori del Lugano all'alba del giorno dopo, quanto già mi piace, alle 5:30, li ha messi sul pullman. Li ha portati in una zona dove c'è un'azienda, dove stavano iniziando gli operai del turno del mattino alle 6, e ha fatto vedere, dice, ha fatto parlare i giocatori con questi operai, dice: imparate che cosa vuol dire lavorare davvero. Forse avrà detto anche razza di smidollate, non lo so. Che è una cosa, caro Mauro, che potremmo fare anche noi. Secondo me al Paris Saint-Germain stanno prendendo appunti, ad esempio. E poi forse anche altre squadre potrebbero, esatto, prendere appunti sulla materia. Comunque interessante, al di là della questione del calcio, Lugano svogliato in campo, Tramezzani lo porta in fabbrica. Ecco, non è che proprio li ha portati a fare un turno di lavoro, ma... Gli ha mostrato che magari ci sono persone che si guadagnano da vivere anche svegliandosi, esatto, molto presto, come te, Alessandro. Sì, poteva, esatto, portarli qui da te. Anzi, io dovrei, quando mi lamento, alzarmi e andare a fare un turno in fabbrica. Magari mi lamenterei, anzi sicuramente mi lamenterei meno. Va bene, dai, l'abbiamo già detta prima anche la ode, però devo ripeterla perché in rassegna stampa la ode al sindaco di Saronno, per quel che mi riguarda. Sara Giudici sul Giorno racconta che a Saronno il comune, guidato dal leghista Alessandro Fagioli, ha deciso di ingaggiare, diciamo, per la battaglia ai padroni dei cani senza paletta degli agenti segreti sguinzagliati, ovviamente guinzagliati che vanno in giro a fare le multe a chi non ha la paletta e fa sporcare il marciapiede senza poi raccogliere. Santo subito, io vorrei questo sindaco. Ma tu hai però questo approccio sempre un pochino imperativo. Qualche giorno fa volevi che io mangiassi il mozzicone della sigaretta, sì, esatto, pur di non buttarlo. Esatto, ho detto democraticamente, se non sai dove buttarlo, non vuoi spendere 3 eurini per i porta mozziconi, ingoiano. Va bene, guarda, terrò presente il consiglio. Magari non darei lo stesso consiglio al padrone del cane sprovvisto di paletta, ecco, sì. Mi sembra un pochino eccessivo. Beh, come punizione non sarebbe male. Vai che non lo fa più poi. Non dare delle idee al sindaco di Saronno. No, non do idee al sindaco di Saronno. Però è il momento della carta costa. Tu l'hai trovata la carta costa? Tu hai una tua carta costa particolare? No, avevo forse una segnalazione da una fotonotizia di carta costa che sta in prima pagina. Sì, forse. E allora è proprio siamo all'unisono. Siamo sintonizzati. Sul Corriere della Sera un'intera pagina di Agostino Gramigna per raccontare che a volte il talento non è di famiglia. E perché non è di famiglia? Perché il figlio di Messi non ama il calcio. I figli di Dylan, Bob Dylan, non amano la musica. Ma chi se ne frega?